piano con rabbia e furore, scrivo note, ci metto il mio cuore, disegnando una frase perfetta che svanisce al di fuori di me. Sono stanca di essere buona, di arenarmi di dosso, le tue scuse non voglio sentire, prendo quello che posso.